Effetto Mondo. Hey, what's up guys? So look, this morning I got some test results back for coronavirus and it came back positive. Yeah, and it sucks. Eccoci qua, ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno Alessio. Cosa abbiamo sentito? Era la voce di Idris Elba, che è questo attore britannico molto famoso per aver interpretato soprattutto Luther, che è una, dove interpretava un detective molto combattuto. Ha vinto un Golden Globe, cioè gli Oscar della televisione. Molti pensano che sarà il primo 007 nero, quando Daniel Craig seguendo quello che aveva già detto più volte, si ritirerà da questo ruolo. E ha detto è risultato positivo, e in questo video fatto con accanto alla moglie, che non ha ancora fatto il test, dice sì, ho il coronavirus and it sucks, che vuol dire proprio, ed è proprio una maledizione, una schifezza, ecco. Però il tema è naturalmente è quello delle celebrities che fanno queste comunicazioni, perché poi il video dura 2 minuti e mezzo e naturalmente ribadisce, benché lo ricordiamo, in realtà nel Regno Unito non ci sia ancora una legge che chiude i negozi con un decreto simile al nostro, però fa le raccomandazioni che noi ci sentiamo fare da settimane, cioè limitate, ecco, al minimo, sì, i contatti. E a questo proposito, Giulia, ti voglio chiedere sulla Gran Bretagna, non so se lì davanti a te proprio i giornali inglesi o se hai raccolto comunque qualche notizia, perché in tanti fanno il confronto con tutto quello che accade, Brexit o non Brexit, voglio dire, nel resto d'Europa, il continente, tutte misure molto drastiche sul modello italiano. La Gran Bretagna forse sta aggiustando un po' il tiro. Che notizie leggi sui giornali? Sì, hanno tutte in prima pagina la foto della conferenza stampa di Boris Johnson di ieri, che anche qui sembra un Boris Johnson un po' come Trump, un Boris Johnson diverso da quello dei giorni precedenti, perché benché, ripetiamo, forse anche per cultura così legale possiamo dire, cioè loro prima di fare una legge che impedisce, perché di fatto limita le nostre libertà civili, prima di farla probabilmente hanno come una specie di barriera culturale, ecco. Io credo che si arriverà anche lì a questo, però hanno fatto, ci sono tantissime persone che di loro spontanea volontà stanno facendo quello che stiamo facendo noi qui, forse più scene di accaparramento e di supermercati svuotati, questo fa molto effetto e viene naturalmente viene stigmatizzato dai giornali, però è anche una reazione, se vogliamo, di nuovo bisogna mettere tutto sulla bilancia, forse. Quindi, scusami, dare delle indicazioni. Sì, mi stai dicendo che al di là del possibile ripensamento di Boris Johnson, ma insomma, stante la linea fino ad ora minimizzante la Gran Bretagna, però ci sono le foto sui giornali con i supermercati presi d'assalto, quindi la gente è preoccupata. La gente è preoccupata, c'è un'intervista sul Guardian all'ex CEO di Waitrose, che è un supermercato, una specie di S Lunga nostro, cioè è un supermercato anche che, come ha fatto l'S Lunga negli ultimi anni, io non voglio fare pubblicità a nessuno, però si è dato un po' questa immagine di supermercato smart, e Waitrose è tra l'altro molto all'avanguardia anche sull'avere fornitori a chilometro, non dico zero ma quasi, quindi molto molto ascoltato questo CEO, e ha cercato di rassicurare che i rifornimenti saranno garantiti, che comunque loro hanno scorte per un paio di settimane. Questo però sullo sfondo torna la Brexit, perché è chiaro che è vero che siamo in un momento transitorio, le barriere doganali non sono ancora chiuse come lo saranno forse nel 2021, però ci sono comunque delle norme che non c'erano un anno fa, quindi in realtà forse qualcuno comincia a pensare, come retropensiero, che forse la Brexit comincia a mostrare i suoi, quelli che molti pensavano fossero i difetti, cioè l'isolamento dal continente, eccolo qua. Eccolo qua. Giulia, coronavirus, notizia globale che azzera tra l'altro quasi tutte le altre notizie. Dove, cos'hai trovato sui giornali di oggi interessante? Guarda, molto interessante, l'ho anche segnalato Alessandro Plateroti, che so che interviene a Focus Economia, e so che insomma cerca sempre di dare magari un angolo di visuale un po' diverso sulle questioni finanziarie. Il Wall Street Journal, certo, come potete immaginare, parla dell'ennesimo scivolone di borsa di ieri e ancora di tutto questo muoversi in ordine sparso dei governatori, però spiega anche che forse in queste reazioni così drastiche della borsa, queste cadute, questi crolli, ormai insomma sono due o tre, continuano a battere record, hanno un ruolo anche gli algoritmi, un ruolo che è ancora più forte di quello che avevano ai tempi della crisi del 2008, seguita al crollo di Lehman Brothers, al crack di Lehman Brothers nel 2003-2004 per la SARS, dopo l'11 settembre. È come se il computer fosse, adesso prendete naturalmente con le pinze, però si spaventasse ancora più velocemente degli esseri umani. Quindi dare molta, ovviamente lui tiene conto di variabili che per lui sono molto concrete, quindi appunto la chiusura delle attività economiche, la Fed che agisce, e gli algoritmi reagiscono di conseguenza in maniera forse ancora più esasperata di quanto farebbero degli operatori umani. Senti Giulia, fa parte del terzetto, diciamo, dei minimizzatori, dei grandi leader definiti populisti, Trump, parlo di Trump, di Johnson e di Bolsonaro in Brasile. Anche lui ha fatto un po', come dire, un po' scherzato, ha fatto il gesto dell'ombrello dopo che gli avevano detto che era negativo al test, una cosa non elegantissima, soprattutto rispetto a chi il virus ce l'ha davvero. Che notizie hai sull'America Latina? Sì, guarda, sono andata proprio a vedere i quotidiani brasiliani e ci sono, al di là appunto di Bolsonaro, che tra l'altro l'altro ieri era in prima pagina, ieri su alcuni quotidiani è di nuovo andato a fare un bagno di folla tra i suoi sostenitori, poi ha fatto una specie di pellegrinaggio insieme ai familiari, tra l'altro molti suoi collaboratori sono positivi al coronavirus. Zero Ora, per esempio, un quotidiano di Porto Alegre, ha una foto: en tempos de coronavirus. La foto è divisa in tre: supermercati con persone con mascherina e scaffali semivuoti, scuole che vengono disinfettate, autostrade deserte. Quindi anche lì forse la popolazione è più avanti dei suoi leader, quando i leader sono negazionisti. E invece abbiamo trascurato fin qua le notizie dagli Stati Uniti. Hai qualcosa? Sì. L'altra cosa che volevo segnalarvi è, ne scrive il Wall Street Journal in prima pagina, ma la riprendono un po' tutti: Amazon ha annunciato che assumerà 100.000 persone, divise un po' tra Stati Uniti, ci saranno anche in Europa. A tutti verrà dato un aumento di $2 o 2 euro qui in Europa, avranno dei contratti che potranno essere rinnovati, perché naturalmente la paura è: va bene, adesso Amazon ha un super picco di domanda e quindi ha bisogno di persone per gestire i magazzini e per consegnare, e poi quando finirà questo picco, tutte queste persone a casa con una pacca sulla spalla. Quindi come se ci fosse una presa di coscienza anche da parte di Amazon, che bisogna, questa gig economy sta mostrando tutti i suoi, naturalmente tutti i suoi difetti, e quindi questi contratti dovrebbero essere non solo per tamponare le esigenze di Amazon, che vuole approfittare tra virgolette di questo momento, ma anche per avere un approccio diverso verso i lavoratori. Senti Giulia, abbiamo ancora un minuto. Spagna, Germania, La Spagna è molto avanti coi casi, forse è il secondo paese in Europa dopo di noi. Sì, infatti anche in Spagna ci sono le foto sui giornali, sia di tutte le operazioni di disinfezione che sono in corso. Per esempio sulla prima pagina di El País c'è la foto delle persone che stanno disinfestando l'aeroporto di Malaga, ma sta succedendo ovunque, anche nelle scuole, che naturalmente sono chiuse. E il dato a proposito di 100.000 è che si prevede che in Spagna, dove sappiamo la disoccupazione era molto alta, non come in Italia, ma comunque alta tra i giovani, ma c'era anche molta gig economy, ci sono 100.000 persone che a breve o a brevissimo perderanno il lavoro, perché appunto avevano delle forme di lavoro temporaneo che purtroppo sono le prime a essere colpite da questa crisi. Grazie Giulia, ci risentiamo domani naturalmente. È tutto per la puntata di oggi, con Paolo Colleoni in regia, Laura Faggini in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata. Ci risentiamo tra pochissimo per l'aggiornamento delle 14:00.